Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Consiglio europeo, tutti contro la Turchia? Nagorno-Karabakh, quinto giorno di guerra, le armi più affilate restano quelle della propaganda. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Judith Collins, have you ever used cannabis? No, I have not. Jacinda Ardern, have you ever used cannabis? Yes, I did, a long time ago. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia c'è Valeria Bernardi. E come sempre il numero da comporre per SMS, WhatsApp, domande e commenti è il 349-238-6666. Siamo sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, twittiamo anche noi e cercateci Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. I temi di quest'oggi: è in corso una importantissima riunione straordinaria del Consiglio d'Europa per discutere i temi più caldi, soprattutto in tema di politica estera, fra i quali naturalmente c'è il dossier che riguarda il Mediterraneo orientale, gli appetiti turchi, gli scontri con Cipro e con la Grecia e la posizione dell'Unione Europea. Escono già le prime dichiarazioni, ma tra pochissimo metteremo il grand'angolo e cercheremo di capire meglio che cosa può scaturire da questo importante Consiglio d'Europa. La domanda che si fanno tutti è: l'Europa imporrà sanzioni sulla Turchia? E poi ancora, a provare a scrostare dalla superficie fatta di numeri non verificabili, di tanta propaganda, quello che sta accadendo in Nagorno-Karabakh, che entra nel quinto giorno di conflitto vero e proprio. Le immagini, le poche immagini che arrivano dalle grosse agenzie, dai grandi network internazionali, restituiscono immagini di guerra a tutti gli effetti. 349-238-6666, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Che vuol dire darvi conto dei temi sui quali io e la mia redazione stiamo lavorando, diventeranno approfondimenti di Nessun Luogo Lontano nelle prossime puntate. C'è una notizia che è molto molto interessante e arriva da Tel Aviv ma anche da Beirut. Sostanzialmente c'è un ok per una serie di colloqui preliminari sulla definizione dei confini marittimi tra Libano e Israele, appunto. Sapete che non corre buon sangue fra i due stati, una recentissima guerra ha ferito in maniera molto molto forte quella frontiera, sud del Libano, nord di Israele, però pare che vi siano segnali di buona volontà, il tutto dettato probabilmente non tanto da una precisa volontà di riappacificazione politica, ma soprattutto la volontà da parte di Beirut di andare a beneficiare di quelle che sono le ricchezze a largo delle coste del Libano. In particolare c'è la volontà di andare a fare esplorazioni di gas naturale, e questo è un tema molto molto interessante perché potrebbe essere il primo passo per un disgelo fra i due paesi. E poi in Egitto, perché lo scorso sabato, il 26 settembre, si doveva svolgere l'udienza sul rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente egiziano, lo ricorderete, faceva un master all'Università di Bologna, arrestato al Cairo lo scorso 18 febbraio. Una rivolta scoppiata in alcune sezioni del centro penitenziario di Tora, dove lo studente è recluso, ha reso impossibile il suo trasferimento in udienza. Pertanto, in accordo con gli avvocati difensori, ieri è stato annunciato che l'udienza è stata rinviata al 7 ottobre e siamo alla vigilia dell'ottavo mese di detenzione di Patrick Zaki. Naturalmente lo sapete, la vicenda dello studente è emblematica per delineare quello che è lo stato dei diritti individuali in Egitto, e quindi torneremo sicuramente a parlarne. E poi a Hong Kong, perché oggi era la festa nazionale cinese, almeno 69 persone, ma quale cifre sono discordanti, sono state arrestate con l'accusa di aver partecipato a un'assemblea non autorizzata. Il tutto mentre la polizia in assetto antisommossa ha pattugliato per tutta la giornata le vie dell'ex colonia britannica con un sacco di fermi, perquisendo molti passanti. Hong Kong in realtà si era preparata a un potenziale caos, ma sostanzialmente dalle immagini si vedono più poliziotti che potenziali manifestanti, tanto che le autorità avevano dispiegato 6.000 uomini, pensate, nel giorno del 71esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Una marcia proposta dal Fronte per i Diritti Umani e Civili era stata precedentemente vietata, scusate, per motivi di sicurezza e salute pubblica. E poi c'è un altro dossier che si scalda, che è quello del dissidente Navalny, il quale ha annunciato pochissimi minuti fa di voler querelare il portavoce del Cremlino Peskov, perché secondo il Cremlino Navalny sarebbe un agente della CIA. E Navalny ha scritto sui social sfidando Peskov a mostrare le prove di quella che è a tutti gli effetti, secondo lui, un'accusa totalmente infondata. Ha detto: mostrate le prove, magari in un programma in prima serata, però sapete che c'è, nel frattempo io intanto querelo il portavoce del Cremlino. Questi sono i temi sui quali stiamo lavorando e che diventeranno approfondimenti nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però chiudiamo i nostri dossier internazionali e, mentre ancora discutiamo degli esiti e delle conseguenze del dibattito Trump-Biden, ve ne abbiamo dato conto proprio ieri, tra le altre conseguenze ci sono un record di raccolta fondi per Joe Biden, una ridiscussione delle regole per i prossimi due confronti, perché è apparso evidente a tutti che così proprio non si può giocare, diciamo che le regole sono state sovvertite. Allora vi faccio sentire e vi racconto un altro dibattito di tutt'altro tenore, secondo confronto televisivo in Nuova Zelanda in vista delle elezioni di sabato 17 ottobre per il rinnovo del Parlamento. Jacinta Ardern, leader laburista e attuale premier in carica, se l'è vista con Judith Collins, e sapete com'è andata? Molto, molto diversamente. Il fatto è che qualsiasi cosa dica è una bugia. Tutti sanno che è un bugiardo. Senti, è così e punto. Judith Collins, could you describe to me in your Definisca own words, Jacinda Ardern. Jacinda Ardern. Oh, well, I think she means Penso sia animata da buone intenzioni e che sia una buona comunicatrice. Very, very good communicator. What is brand Judith Collins? Definisca Judith Collins. Very assertive in a debate. Oh, lei è molto assertiva. Damn right. Be honest here. Sia onesta. Have you ever in privato ha mai definito Judith Collins as crusher in private. Una rompiscatole? I haven't actually. Okay. Oh no, mai. All right. E così Valentina Ternullo e Verela Bernardi ci hanno raccontato nei consueti 90 secondi quella differenza, quello iato incredibile che si è scavato tra il dibattito statunitense e quello invece in vista delle parlamentari neozelandese. A giocarsela, come avete sentito, con un grande fair play, con leggere stoccate di fioretto a questo punto, mentre negli Stati Uniti si è tirato soprattutto di sciabola, erano Jacinta Ardern, leader laburista e attuale premier in carica, con Judith Collins, e come avete sentito sono quasi riuscite a farsi dei complimenti. Quello che è emerso dal dibattito televisivo è stato sostanzialmente un omaggio molto molto forte a quelle che è la forma che forse la grande politica dovrebbe avere, molto molto distante invece da quello che abbiamo visto in Ohio. D'altra parte, lo dicevo all'inizio di questa breve pagina tutta elettorale, negli Stati Uniti si sta pensando di ridisegnare le regole per i prossimi due importantissimi dibattiti. Questa era una piccola puntualizzazione che ci piaceva sottoporvi. Adesso però andiamo a parlare di Consiglio Europeo. Ci sono già un po' di prese di posizione, è un Consiglio europeo straordinario, innanzitutto il tema bielorusso. Il Consiglio condanna le inaccettabili violenze contro manifestanti pacifici, esprime pieno sostegno ai cittadini bielorussi per il loro diritto a eleggere il presidente attraverso nuove elezioni libere e senza condizionamenti esterni. Questa è la bozza che è stata redatta e che i leader troveranno sul tavolo per questo Consiglio convocato dal presidente Charles Michel, che inizia oggi pomeriggio e che è in corso sostanzialmente in questi minuti, per cui se vi saranno novità naturalmente ve ne darò conto. Non soltanto il tema della Bielorussia, ma anche la situazione dei diritti umani in Cina, la situazione di Hong Kong, insomma, oltre che il Mediterraneo orientale di cui parliamo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, sostanzialmente tutti i temi di politica estera più caldi in questo momento, incluso naturalmente la situazione in Nagorno-Karabakh, che ci andremo nella seconda parte di Nessun Luogo Lontano. A cercare di addolcire, come dire, il documento finale del Consiglio ci ha pensato, o quantomeno ci ha provato, il leader turco Erdogan, perché sostanzialmente con una lettera inviata ieri ai vari capi di Stato e ai vari premier chiedeva, anzi sosteneva, di essere pronto a un nuovo colloquio con la Grecia senza preclusioni di sorta. Quella lettera, quella apertura così tempestiva proprio a un giorno del Consiglio europeo ha fatto storcere il naso a molti, ma insomma fai la voce grossa fino al giorno prima e poi con la paura delle sanzioni, perché è questo di cui si parla, potrebbero essere decise delle sanzioni contro la Turchia, provi ad ammorbidire i toni. Ci sono un po' di dichiarazioni, per esempio Josep Borrell, che è l'altro rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, in sostanza il ministro degli esteri dei 26, nei rapporti con la Turchia ha detto: siamo uno spartiacque, dobbiamo decidere il futuro delle nostre relazioni e evitare l'escalation del conflitto per la definizione delle acque territoriali. Prima di andare a vedere come si sta relazionando la Turchia con i vari attori in Europa e non solo, proviamo a guardare meglio in casa turca, proviamo meglio a guardare Ankara come se la sta passando. Ci sono un po' di fronti, su tutti naturalmente quello economico, che preoccupa molti analisti e molti osservatori finanziari. Proviamo a fare il punto, lo facciamo con Valeria Talbot, che è responsabile del programma Medio Oriente di ISPI. Talbot, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. In un recentissimo articolo pubblicato proprio da ISPI Online, dal titolo è particolarmente emblematico, Turchia al capezzale di una lira debole, lei pone l'accento sulle difficoltà dell'economia turca, ma anche sull'aspetto strettamente valutario. Che cosa sta accadendo e quali sono state le decisioni ultime, forse inaspettate, della Banca Centrale Turca? La scorsa settimana la Banca Centrale Turca ha alzato di 2 punti percentuali il tasso di interesse nominale. È stato un fatto di rilievo, visto che nell'ultimo anno e mezzo il nuovo governatore della Banca Centrale aveva proprio abbassato il tasso di interesse, portandolo dal 24% all'8.25%, in linea con quella che è la politica dei tassi bassi portata avanti dal presidente Erdogan, qui per stimolare la crescita. Ma inevitabilmente questo ha provocato fortissime pressioni sulla lira. Ricordiamo che la lira turca è stata travolta da una crisi valutaria importante nell'estate del 2018. Sì. E questo poi ha portato il paese in recessione, e soltanto gradualmente nel corso del 2019, alla fine del 2019, la Turchia stava con difficoltà uscendo da questa situazione. Quindi la pandemia comunque è intervenuta su un'economia fragile, sì, su un'economia piena di difficoltà. Non si è agito subito. È chiaro che in un momento di pandemia la Turchia, come altri paesi al mondo, hanno portato avanti una politica espansiva di sostegno per dare respiro ad aziende, alle famiglie, ma questo, se può avere un ritorno nell'immediato, non lo ha nel lungo periodo, anzi ha creato pressioni sulla lira, l'inflazione è cresciuta. Quindi si è cercato di aggiustare il tiro, anche se appunto sono molti gli economisti che ritengono che si tratti di un piccolo passo ma ce ne vorrebbero degli altri. Ecco, di cosa avrebbe bisogno l'economia turca per risollevarsi? Le faccio queste domande, Valeria Talbot, lo ricordo, è responsabile del programma Medio Oriente di ISPI, perché in questa puntata, in Nessun Luogo Lontano, proveremo a analizzare ancora una volta la grande proiezione all'esterno di Ankara, però proveremo, diciamo, a fare i conti in tasca a Erdogan, che è alle prese con una serie di problemi, primo fra tutti anche la recessione economica concausata dal Covid-19. Qual è lo stato di salute dell'economia turca? Quanto dipende, per esempio, da import-export e da finanziamenti stranieri? Perché lei nel paper, come dicono gli anglosassoni, analizza molto bene questi aspetti. Ma l'economia turca richiede ingenti finanziamenti esterni ed è chiaro che comunque questo richiede dall'altro lato una stabilità economica e finanziaria da parte della Turchia, perché senza questa è la condizione perché certo, gli investitori internazionali, i mercati vadano nel paese. La Turchia tra l'altro è un paese che dipende molto dalle importazioni. Queste si sono ridotte nel periodo della pandemia, ma in misura molto minore rispetto alla riduzione dell'export turco. Questo significa che, nonostante la svalutazione della lira, complice la situazione internazionale, comunque certo, le esportazioni sono crollate. Deficit della bilancia di conto corrente, che è un problema cronico della Turchia. Ricordiamo anche che la Turchia è un paese importatore netto di energia e questo si ricollega al discorso delle trivellazioni certo, nel Mediterraneo orientale certo, e quindi alla necessità della Turchia di ridurre la propria dipendenza soprattutto dai fornitori esterni, in primis la Russia. Quindi cercare di diversificare i propri approvvigionamenti energetici proprio per ridurre questa forte dipendenza e di conseguenza anche il deficit delle partite correnti. Nelle parole, nel commento di Valeria Talbot, lo ricordo, che è responsabile del programma Medio Oriente di ISPI, Istituto degli Studi di Politica Internazionale, emerge chiaramente che una parte, diciamo, delle ambizioni geopolitiche di Erdogan deriva sicuramente dal voler puntellare, sostanziare, riempire un po' di più quella che è il motore economico della Turchia. Certo è vero che, e ci torneremo, lo dicevo nella seconda parte di Nessun Luogo Lontano, sui dossier stranieri Erdogan ha messo decisamente la quinta, però vi sono altri problemi interni, penso all'epidemia, alla pandemia da Covid-19 e anche a quelli dell'opposizione interna, sempre più messa a tacere, ma che sicuramente qualche grattacapo a Erdogan stanno dando. Su questi due fronti che cosa si può dire? Come sta giocando la partita il governo di Erdogan? Intende sul fronte pandemia e sul fronte opposizione? Esattamente. Sul fronte pandemia la Turchia si trova a gestire un inizio di seconda fase. Anche nella prima fase non aveva attuato dei lockdown totali ma parziali, soprattutto durante il weekend o in concomitanza di feste nazionali. Sta valutando delle ulteriori restrizioni nel caso in cui appunto i contagi si dovessero diffondere. Ricordiamo che la Turchia è dopo l'Iran e l'Iraq il terzo paese della regione medio orientale per numero di contagi da Covid-19. Sì. Restrizioni si stanno valutando, anche se questo significherebbe arrestare o comunque rallentare delle attività economiche, e abbiamo visto in questa fase la Turchia non se lo può permettere, anche perché il turismo, che era una delle, diciamo, certo, una delle dei settori di punta su cui appunto il paese puntava nella fase estiva, non sì, ha decollato come altrove. Certo. Sul fronte opposizioni si assiste ad una stretta nei confronti di tutte le voci critiche, lo abbiamo visto negli ultimi anni, continuiamo a vederle sia nei confronti degli esponenti politici del principale partito di opposizione, sia nei confronti del partito curdo in quest'ultimo anno, dopo le elezioni amministrative del 2019. Sono state diverse decine i sindaci curdi sollevati dal loro incarico, alcuni arrestati perché accusati di essere affiliati con organizzazioni terroristiche o svolgere attività terroristiche, definite terroristiche. C'è un'azione anche di contrasto molto forte nei confronti dei due sindaci del Partito Repubblicano del Popolo, che governano le due principali città sì. del paese, sì. Istanbul e la capitale Ankara. Ed è soprattutto a Istanbul che questo scontro si vede in misura maggiore. Ricordiamo che durante le amministrative dello scorso anno, anzi prima delle amministrative, Erdogan aveva detto: chi vince Istanbul vince la Turchia. Quindi bisogna stare attenti a fare dichiarazioni di questo tipo, perché poi se le cose non vanno esattamente come il sultano aveva previsto, diventa molto, molto difficile. Io ringrazio tantissimo Valeria Talbot, in pochi minuti è riuscita a darci un'idea della complessità dei tanti fronti interni che Erdogan sta affrontando, a dispetto di un'immagine, quella proiettata all'esterno, che noi raccontiamo molto spesso qui nel Sul Luogo Lontano e che sembra monolitica e assolutamente muscolare. Quest'oggi al Consiglio Europeo si discute anche di questo, eventuali sanzioni sulla Turchia. Lo sapete, il tema è la controversa gestione delle acque del Mediterraneo orientale. Tra poco ci andremo. Intanto grazie mille a Valeria Talbot, responsabile del programma Medio Oriente di ISPI. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Ho detto Consiglio d'Europa, era un lapsus evidentemente, Consiglio europeo. La Nuova Zelanda non conta nulla, poi con il livello del nostro Parlamento meglio tacere, scrive un ascoltatore. Ma non conterà nulla, ma intanto una gestione del Covid che è stata fatta notare all'Arden, che ha funzionato. Sì, è agli antipodi, è vero, però è una democrazia moderna a tutti gli effetti, che ha prodotto intanto una premier donna e la principale oppositrice è donna, e a me sembra tanto un segnale di altissima civiltà, sempre se ripenso a quel macista e scomposto confronto che ha visto Trump e Biden poche ore fa. Un po' di messaggi al 349-238-6666, un ascoltatore, ma forse... prima che andassimo avanti con la discussione con Valeria Talbot, al di là dell'economia non dimentichiamo il costante strangolamento della società civile e delle libertà in Turchia, paese in pratica dove il diritto di difesa esiste per molti ma non per tutti, nemici del popolo, così Alessandro ironicamente, ma spesso abbiamo intitolato intere puntate in Nessun Luogo Lontano dedicate alla Turchia come non è un paese per giornalisti e non solo. Invece è il momento di andare a sentire le borse e poi aprire la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano tornando su quella pagina che potrebbe essere scritta quest'oggi. Il Consiglio Europeo potrebbe decidere di imporre sanzioni sulla Turchia. Un ascoltatore via Facebook non si dice troppo ottimista su questa scelta. L'Europa non porrà mai sanzioni su Turchia, abbiamo troppi interessi economici europei. Un esempio, le fabbriche automobilistiche, in primis Renault, Fiat, ma anche altre, e poi ci scaricherebbero tonnellate di migranti. La Russia potrebbe imporre qualcosa, forse. E già, come dire, chiaramente va al punto della questione. Ci sarà ancora una volta timidezza da parte dell'Unione Europea per un partner che, è inutile negarlo, è molto molto importante ed è fonte, a seconda dei... a volte, come dire, dell'erratica politica di Erdogan, di stabilità o instabilità alle porte d'Europa. Partiamo con le parole di Erdogan su un caso che forse è emblematico e plastico di come si può vedere la sovranità territoriale, anzi, scusatemi, marittima, su alcune zone di mare antistanti proprio la costa turca. Sentite. La Grecia sta rivendicando la sovranità marittima attraverso l'isola di Meis, che è a soli 2 chilometri dalla costa turca. E sapete quanto dista quest'isola dalla Grecia? 580 chilometri. È una cosa inspiegabile. Non Abbiamo bisogno di dialogare e negoziare per risolvere i problemi nel Mediterraneo orientale. Se agiamo guidati dal buon senso, possiamo trovare una soluzione soddisfacente per le diverse parti coinvolte. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano anche a Marta Ottaviani, giornalista freelance esperta di Turchia ma anche di Grecia, che sono un po' i due attori principali dei quali si discute nel Consiglio europeo. Marta, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La prima domanda è molto diretta: ci sarà la forza e la volontà politica di imporre sanzioni o per l'Europa diventa un suicidio? Marta Ottaviani. Oddio, questo è l'auspicio, io lo spero, anche perché sono anni che si permette a Erdogan di fare sostanzialmente quello che vuole nella regione mediterranea, ma non solo, e l'unico risultato è stato che Erdogan ha aumentato a dismisura le sue ambizioni. Non c'è mai stata da parte della Turchia la volontà di scendere a compromessi o di agire come forza realmente pacificatrice e mediatrice nelle aree in cui si è trovata ad agire. Quindi io credo che in questo momento sia proprio venuta l'ora di prendere, come dire, di agire in maniera concreta, e purtroppo però temo sia persino troppo tardi, perché la Turchia è diventata un mostro, una mina impazzita che si autoalimenta e che non ha alcuna intenzione di indietreggiare rispetto a quelli che ritiene dei suoi diritti, che vanno completamente contro il diritto internazionale. Di fondo il presidente Erdogan è un leader politico che vive in una dimensione storica tutta sua, vuole riportare il Mediterraneo a prima della prima guerra mondiale, e qualcuno, è venuto il momento che qualcuno gli faccia capire che questo non è possibile. La voce e il commento di Marta Ottaviani, particolarmente avvertiolo quest'oggi, Marta, proprio nella giornata in cui il Consiglio europeo decide se fare un passo contro la Turchia o meno. D'altra parte, nella prima pagina di Nessun Luogo Lontano stavamo sottolineando le tante difficoltà e tanti fronti interni di Erdogan, dalla questione Covid all'economia, il consenso politico, la questione curda mai risolta. Insomma, sembra che di fronte a una ipertrofia del sultano su tutti i dossier esterni, poi alla fine a casa sua non se la passino tanto bene. Senza sanzioni si può porre un freno alle volontà espansionistiche di Erdogan, o a questo punto è l'ultima arma rimasta? No, non è possibile, non è assolutamente possibile. Erdogan non accetterà mai di sedersi a un tavolo con posizioni poste da altre. Erdogan è arrivato a un punto, ma è sempre stato un po' il suo mind setting questo, la sua impostazione mentale. Erdogan si siede a un tavolo solo se vengono accettate le posizioni che ha imposto lui, e purtroppo io spero di non essere troppo pessimista dopo essere stata particolarmente al vetriolo, ma non è nemmeno detto che le sanzioni bastino a far ragionare la Turchia, perché è un paese che ormai è veramente fuori controllo e ha un leader che, per anche le motivazioni interne che avete citato poco fa, sì, è determinato ad andare avanti con sempre più arroganza in questa agenda politica esterna, che è sempre più arrogante, sempre più pericolosa per tutte le regioni che chiama in causa, ma anche sempre più autolesionista per la Turchia. E peraltro, fra i vari quadranti sui quali c'è rinnovata attività, c'è anche quello del Nagorno Karabakh, ovviamente, poi ci andremo nell'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Recentemente alcune fonti di stampa hanno ricordato come la visita di Mike Pompeo in Grecia, questa volta è sempre area di tua competenza, Marta Ottaviani, l'amministrazione statunitense stia rinnovando l'interesse per un potenziamento della presenza militare statunitense proprio in Grecia, quasi come se l'amministrazione si preparasse, al di là dell'eventuale cambio di presidenza, a avere una testa di ponte più con Atene che con Ankara. Questo secondo te denuncia anche un cambiamento dell'amministrazione statunitense nei loro rapporti con la Turchia? Cioè, si fidano più della Grecia che della Turchia per proiettarsi in Medio Oriente? È possibile? Ma diciamo che in questo momento la Grecia è sicuramente più controllabile, più malleabile e anche più leale della Turchia. Non è comunque un paese che abbia mai dato problemi seri a livello di affidabilità, per quanto non ci dimentichiamo che la Cina, che in questo momento è il nemico numero uno per gli Stati Uniti in Grecia, ha degli investimenti notevoli, quindi la volontà di mettere da parte degli americani di aumentare anche la loro influenza in Grecia potrebbe anche essere dettata da questo motivo. Certo. Certamente il voler potenziare la Grecia è un messaggio per la Turchia, bisogna però vedere poi anche la reale fattibilità di questa operazione, se la finalità ultima è quella di trovare un'alternativa alla base turca di Incirlik, che ricordiamoci è una base NATO di grande importanza dal punto di vista strategico. Ecco, potrebbe essere tutta la volontà di questo mondo, ma con le armate russe potenziate alla Turchia e quindi in grado di intercettare qualsiasi volo parta da Cipro o da Creta, ecco, la vedo purtroppo dura a togliere la Turchia dai giochi. Certo è che quello che sembra è che gli Stati Uniti vogliano, come dire, diminuire il leverage della Turchia non solo all'interno delle alleanze internazionali, ma probabilmente della stessa NATO. E infatti un ascoltatore, proprio mentre affrontavi diciamo l'altro spauracchio, quello cinese, la presenza cinese in Grecia, ricordiamo il porto del Pireo su tutti, ma non solo, scriveva: l'Europa non può mettere all'angolo la Turchia senza appoggio americano, ma gli americani non a torto interessa più non regalare il paese e i relativi teatri ai russi. E poi aggiungeva: attenti che la presenza in Grecia è anche un messaggio alla Cina, non è tutto Turchia. E Marto Taviani lo stava spiegando molto bene. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Sono la maggior parte dei vostri gentili ascoltatrici e ascoltatori stigmatizzano un po' l'assenza della politica estera europea e puntano il dito verso la muscolarità di Erdogan, che in questi mesi abbiamo molto spesso sottolineato. Marta Ottaviani, l'ultima domanda, ti chiedo di sfregare la sfera di cristallo. Se il Consiglio europeo non decidesse nulla, è possibile che l'Europa debba delegare il dossier di politica estera sulla Turchia a qualche altro attore? Cioè, come al solito, quando c'è un vuoto nella grande politica internazionale, ci si infila qualcun altro, qualcuno solitamente più spregiudicato e più veloce nel prendere decisioni. Se non decide l'Europa, chi potrebbe decidere? Diciamo che l'iniziativa, ma siamo nell'ambito delle supposizioni. Sì, ma abbiamo detto che sfregavamo la sfera, esatto, di cristallo. Diciamo che l'iniziativa potrebbe passare, per esempio, a singoli attori europei. Cioè Emmanuel Macron, che mi pare in pole position, no? Sì. Per andare a ricoprire un ruolo di leader della politica estera europea, soprattutto su un capitolo dove la Germania è evidentemente in difficoltà. Non ci dimentichiamo che in Germania vivono oltre 3 milioni di turchi che possono procurare ad Angela Merkel e al suo successore, soprattutto visto che ormai Angela Merkel è praticamente alla fine del suo percorso politico, dei seri problemi di politica interna, senza dimenticare appunto che la maggior parte dei migranti che Erdogan potrebbe liberare alla volta della Turchia prenderebbero la rotta balcanica per andare in Germania e nei paesi d'Europa del Nord. Quindi sicuramente potrei vedere un Macron che decida di prendere in mano le sorti della politica estera europea. Non ci dobbiamo poi dimenticare che il 3 novembre ci sarà un appuntamento molto importante, ossia le elezioni degli Stati Uniti, che voi state già coprendo in maniera magistrale. Ecco, vedremo un attimino quale sarà il risultato del voto e come Trump deciderà di proseguire con la sua policy europea, scusatemi, mediterranea. E vorrei ricordare come anche i paesi arabi che hanno siglato un accordo di riconoscimento di Israele probabilmente possano essere anche un modo di isolare la Turchia. Vi ricorderete le induttive mosse da Erdogan nei confronti di questi paesi che non avevano che hanno riconosciuto Israele, insomma, alto tradimento, certo. Esatto, tradimento. Non ci dimentichiamo che invece la Turchia non solo riconosce Israele, ma ci fa dei signori affari. Sì. A dimostrare come il premier, anzi il presidente, scusatemi, dal punto di vista teorico dica alcune cose, ma poi da quello pratico ne fa. faccia altre. Grazie mille. Marta Ottaviani, lo ricordo, collabora fra gli altri con Avvenire, esperta di Turchia e Grecia, ci ha aiutato a definire i contorni di questa proiezione all'esterno di Ankara. Grazie mille Marta, buona giornata e buon lavoro. A voi e a buona giornata a tutti. Allora, adesso direi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire com'è la situazione sulle strade italiane e poi torniamo a parlare del quinto giorno di conflitto in Nagorno-Karabakh. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, l'ultima breve pagina, la terza di Nessun Luogo è Lontano, per andare a parlare di Nagorno-Karabakh. Peraltro, a conferma di quanto sia attivo in politica estera il presidente Macron, c'è una dichiarazione congiunta Russia, Stati Uniti e Francia che chiedono in immediato cessate il fuoco nella regione del Nagorno-Karabakh, esortando, leggo testualmente, Armenia e Azerbaigian a impegnarsi nei colloqui senza indugio. Intanto Yerevan e Baku hanno respinto al mittente qualsiasi richiesta di dialogo. Vi segnalo intanto un'altra notizia di cronaca: due giornalisti del Mondo sono stati feriti nell'alto Nagorno-Karabakh proprio mentre stavano cercando di raccontare assieme ad altri colleghi di AFP, Agence France-Presse, quello che sta accadendo. Poche notizie arrivano dal fronte, lo dicevo all'inizio, tutti i numeri vanno presi con le molle. Vi segnalo sul sito di Al Jazeera un'infografica molto interessante sullo schieramento delle truppe in campo e le forze militari a disposizione dei due paesi. Netta predominanza in campo aereo, ma anche di forze corazzate per l'Azerbaigian, però sappiamo che gli attori esterni possono in qualche modo far sbilanciare gli esiti della battaglia. Intanto ci arrivano da fonti a noi vicine chiamate, notizie di chiamate alle armi sotto i 32 anni, lato a zero, addirittura anche piccoli drammi familiari con fratelli chiamati alle armi o morti che già si contano in alcune famiglie. Vi facciamo sentire adesso la voce di Tevan Pogosyan. È il presidente dell'International Center for Human Development. Il conflitto in Nagorno-Karabakh è caratterizzato dal fattore etnico-territoriale. Abbiamo chiesto di fotografare la composizione etnica della regione. Quanti armeni ci sono e quanti azeri vivono in Nagorno-Karabakh? Sentite cosa dice. Dunque, la questione Nagorno-Karabakh ufficialmente inizia nel 1988. All'epoca non era un territorio segnato sulle mappe ed era popolato solamente da armeni. C'erano solo pochissimi musulmani che vivevano lì. In quel periodo la regione, che si chiamava solo Karabakh oppure Arstak in armeno, venne rinominata Nagorno-Karabakh. E anche in quel periodo la popolazione contava circa 180.000 armeni e 2 o 3.000 abitanti di altre etnie, come musulmani, curdi e yazidi. Questa situazione vigeva già durante l'era sovietica, con circa 150.000 armeni e circa 10.000 esponenti di altre etnie e nazionalità, tra cui anche russi e altri 10.000 di etnia azera. Oggi abbiamo un po' di azeri, ma la maggioranza continua a essere armena, con 150.000 abitanti. Questa è la voce di Tevan Pogosyan, presidente di questo think tank armeno, International Center for Human Development. Intanto le agenzie battono una dichiarazione di Emmanuel Macron mentre entra al vertice del Consiglio europeo. Disponiamo, dice Macron, di notizie certe che indicano che combattenti jihadisti siriani sono arrivati nel teatro delle operazioni del Nagorno-Karabakh. È un fatto nuovo e molto grave e ne parleremo qui al Consiglio europeo. Con Putin e Trump, dice Macron, abbiamo deciso di condividere ogni informazione. Queste sono le notizie che arrivano dal fronte. Parlavamo della propaganda che ha un livello altissimo. I conflitti ci abituano a questo genere di armi, evidentemente. Forse tra gli arsenali più potenti che vengono schierati c'è proprio quello dell'informazione, della disinformazione e della propaganda. Abbiamo sollecitato su questo punto anche Tevan Pogosyan. Sentite se rispetto alla domanda se vi sia spazio ancora per la diplomazia o se oramai la guerra è dilagata, sentite la risposta di Pogosyan. In realtà stiamo già assistendo a una guerra su vasta scala. In questo momento sono a Stepanakert e si sentono i rumori di scontri armati e sparatorie, mentre vediamo nel cielo lo scambio di razzi tra le due artiglierie. È a tutti gli effetti una guerra su vasta scala. Inoltre la Turchia è entrata in questa guerra a gamba tesa, abbattendo con i suoi F-16 un jet armeno all'interno dello spazio aereo della Repubblica di Armenia. Il che significa che presto ci saranno operazioni militari congiunte tra l'Azerbaigian e la Turchia. Questa è una guerra su vasta scala indirizzata contro la Repubblica dell'Artsakh e contro la Repubblica dell'Armenia. E penso che questa situazione non farà che peggiorare se la comunità internazionale non si opporrà con forza all'aggressione dell'Azerbaigian. Ciò nonostante, credo che ci sia ancora la possibilità di risolvere questo conflitto attraverso la diplomazia. Ma solo se la condanna all'Azerbaigian sarà forte e risoluta da parte degli attori internazionali attraverso delle sanzioni. Solo in questo modo l'Azerbaigian capirà l'esigenza di sedersi a un tavolo delle trattative. Anche questo tema, anche il conflitto, lo ricordo, giunto al quinto giorno dopo anni e anni di congelamento in buona sostanza in quelle regioni montuose e boschive contese, uno stato de facto il Nagorno-Karabakh, ma da domenica mattina, ore 6 del mattino, si sono riaccese quelle che una volta erano scaramucce, conflitto a bassa intensità. Di questo si parla al Consiglio europeo che è in corso proprio in questi minuti. Naturalmente la speranza da parte di tutti è che al di là delle manifestazioni di volontà che sono ormai di prassi sostanzialmente in questo genere di consessi internazionali, arrivi un segnale forte e la volontà di portare la questione sul piano diplomatico e non semplicemente su quello delle armi. Detto ciò, il tempo è scaduto e me lo ricorda, con come sempre in punta di penna, Valeria Bernardi. You're fired. You're fired. You're fired. Io ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.